Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. We interpret, experimental archaeologists interpret the archaeological record by actually doing and trying to replicate. E di nuovo insieme in Spunti di vista. In questa trasmissione guardiamo fuori per dar voce a ciò che viene fatto nel mondo, che potrebbe risolvere anche delle tematiche difficili a casa nostra. Perché se i problemi sono globali, anche le soluzioni potrebbero esserlo, sono condivisibili. E anzi, tra poco faremo tappa anche in Italia, a Torino, per illustrare un modello che invece viene da qua, quello che sono riusciti a fare. Un miracolo, con i raccoglitori di carta da riciclare. Ma prima faremo tappa nel Maryland, dove c'è un insegnante universitario che consegna le lauree, non sto scherzando, in perizoma di pelle e casacca di pelle di cervo, fatte da lui. Potete vederlo sulla pagina di Facebook. La moglie è un docente di informatica, dunque non c'è nulla di luddista in Bill Schindler. Però è uno che quando ha visto i suoi allievi di 19 anni in difficoltà nel separare il tuorlo dall'albume di alcune uova, ha pensato che c'è qualcosa che gli esseri umani di oggi stanno perdendo. E ha detto, non è solo la manualità che ci manca, sono le abilità cerebrali che rendevano l'uomo del Neolitico in grado di condurre un'esistenza piena di sfide. E questo sarebbe poi diventata la base del suo insegnamento, oltre ai libri. Lui è un docente che ha preso premi in tutto il mondo. Questo professore, Bill Schindler, dunque insegna ai suoi studenti a cacciare con strumenti che prima fa costruire loro, con lame che si devono ricavare da soli, col fuoco che hanno acceso senza accendino, con le pietre. La sua storia sta facendo il giro del mondo perché non è una follia, come sentirete dalle sue riflessioni. Lo abbiamo rintracciato, Bill Schindler, e gli abbiamo chiesto come insegni ai suoi studenti. Sentiamolo. Il tipo di archeologia che faccio io si dice archeologia sperimentale. Il mio lavoro è quello di interpretare i nostri dati archeologici usando e ricreando tecnologie, fabbricare e utilizzare strumenti e comprendere come fossero usati e come si inserivano in un contesto culturale più ampio. Quindi i miei studenti, in aggiunta alle lezioni tradizionali in un'aula, saranno sul campo per imparare come fabbricare utensili in pietra o come fare il fuoco, allo stesso modo di chi ha vissuto 2 milioni di anni fa, o costruiranno vasi d'argilla, macelleranno cervi con gli utensili stessi che hanno fabbricato. È tutto per dar loro un'esperienza sul campo e per avere un assaggio di come gli umani hanno vissuto per centinaia di migliaia di anni. È una collaborazione con gli studenti che creano assieme a noi la loro esperienza di apprendimento con veri progetti, vissuti sulla propria pelle. E dunque ci ricorda un po' l'etnologo francese Claude Lévi-Strauss. A un certo punto aveva dichiarato che la civiltà è in declino. Cioè lui diceva che noi siamo meno intelligenti dell'uomo del Neolitico. E il nostro ospite di oggi, questo professore illuminato, Bill Schindler, è d'accordo con questa informazione? Gliel'abbiamo domandato. È complicato dire che siamo meno intelligenti. Direi sicuramente che siamo meno collegati. Ci sono molte cose che riguardano la nostra vita, l'ambiente in cui viviamo e come sopravvivere, che i nostri antenati sapevano meglio di noi, sicuramente. E ci sono alcune cose che conosciamo molto meglio noi. Non c'è una correlazione diretta tra grandezza del cervello e intelligenza. Ci sono miriadi di altri fattori in gioco. Tuttavia, la taglia del nostro cervello è effettivamente minore di quella dell'Homo sapiens primordiale, ed è sicuramente minore, anche se di poco, di quella dell'uomo di Neanderthal. Penso che l'aspetto più importante da trarre dal confronto è che noi abbiamo una visione molto segmentata e frammentaria della vita, molto locale, se vogliamo. Ci sono cose di cui sappiamo moltissimo, ma non vediamo le ripercussioni delle nostre azioni. Se andiamo a fare la spesa, o qualcuno prepara il cibo per noi, o qualcuno ci ripara l'auto o fa questo tipo di cose. Noi vediamo la ripercussione delle nostre azioni solo attraverso, per esempio, l'oscillazione del prezzo del cibo, ed è un modo di vivere problematico. Problematico in tutti i sensi. Ricade su di noi e sulla nostra salute. Siamo l'unica specie al mondo che assume individui che ci dicano cosa e come mangiare. Assumiamo nutrizionisti e dietologi che ci dicono come mangiare, ma siamo comunque la specie meno sana del pianeta. I think the most unhealthy species on the planet. We've lived beginning 3.5 million years ago, the earliest. A partire da 3.5 milioni di anni fa, l'uomo primordiale era un cacciatore che si procurava tutto il suo cibo. Poi la tecnologia è cambiata e diverse cose sono cambiate. Abbiamo iniziato a cucinare. Circa 12.000 anni fa è stata inventata l'agricoltura e abbiamo iniziato a produrre il nostro cibo e a coltivare. Con la rivoluzione industriale, altre persone hanno cominciato a fare queste operazioni per noi, in modo tale che potessimo lavorare in fabbriche o altrove, con il risultato che oggi siamo solo consumatori. Non abbiamo più l'abilità di vedere tutte le conseguenze di cosa compriamo e cuciniamo e delle decisioni che prendiamo. Non siamo più in grado di vedere cosa significhino queste cose su scala globale. Molte atrocità che stanno accadendo qua negli Stati Uniti, nell'allevamento industriale, come il maltrattamento degli animali o la somministrazione incontrollata di antibiotici che diffonde malattie attraverso la carne, non sarebbero mai successe se negli ultimi secoli avessimo visto esattamente come le nostre decisioni impattavano sugli animali. Ma tutto ciò ci è celato. E la cosa più preoccupante è che questo viene interpretato come prodotto del progresso. E non è così. E dunque le sue, quelle di questo professore vestito da primitivo, non sono considerazioni da eccentrico, sono riflessioni profonde su come ci stiamo rovinando la vita se non riusciremo a far compenetrare le nostre conoscenze anche tecnologiche con l'abilità che l'uomo possedeva 3 milioni d'anni fa anche in Africa orientale. E gli abbiamo chiesto, dunque, questo cosa c'entra con l'insegnamento innovativo? Cioè, perché lei insegna questo ai suoi studenti? Cosa dovrebbero fare loro per invertire questa rotta? Quando penso ai migliori insegnanti che ho avuto, penso a come loro preparassero per me un percorso formativo che, una volta concluso, mi facesse guardare il mondo dal loro punto di vista. Questo non per sostituire la mia prospettiva sul mondo, ma per offrire un punto di vista aggiuntivo. Perché se io vedo ciò che vede un esperto di utensili in pietra quando guarda una roccia, o se vedo ciò che vede un geologo quando guarda una montagna, o se posso vedere ciò che vede un contadino che guarda un campo, ho una nuova finestra sul mondo che ha a che fare con tutto ciò che faccio nella mia vita. C'entra con la famiglia, la carriera. Quindi quello che voglio per i miei studenti è dare loro una vera esperienza d'apprendimento che stimoli tutti i loro sensi. Voglio che prendano quella lezione, la assaggino, la odorino, la vedano, la ascoltino e la tocchino. E se riescono a fare quello, non importa se saranno insegnanti, dottori, politici o avvocati, guarderanno il mondo in modo ricco di significato, con occhi diversi. E loro sono quelli che vorrei occupassero ruoli decisionali per il futuro. Se riusciamo a guardare con quegli occhi, sì. Può sembrare strano il fatto che sto insegnando a studenti come appiccare un fuoco, come creare utensili, ma queste sono attività importanti perché danno un contesto a tutto ciò che accade nel mondo oggi. Quando i nostri antenati, spaccando delle pietre, crearono i primi utensili 3 milioni di anni fa, oltrepassarono i limiti del nostro corpo per la prima volta e iniziarono a interagire con l'ambiente in un modo diverso. Quello è l'inizio di tutta una serie di cose che si conclude con l'iPhone o con la nave spaziale. E sempre lì si va a finire il futuro, a chi lo vogliamo affidare. Questo insegnante ha trovato la sua strada. Ora, Bill Schindler, dopo questa intervista, si è preso un anno sabbatico, si vede che l'abbiamo snervato. Ha deciso che starà con gli indigeni di tutto il mondo per imparare come cucinano. Cioè andrà in diversi villaggi dove ancora si vive in uno stato primordiale proprio per collaborare dal punto di vista del cibo. Quello è la chiave con cui affronta la realtà. tornerà con delle conoscenze acquisite in un anno e collaborerà poi con tutti i più grandi chef del mondo per far inglobare quello che avrà imparato da questo tipo di cucina. E tra loro anche uno chef italiano, John Nucita, che opera in Calabria all'Istituto Italiano di Culinaria. Spunti di vista torna tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Di nuovo insieme a Spunti di vista, sempre Irene Zerbini al microfono. E dunque, se Bill Schindler ci ha affascinato, questo insegnante universitario, per questa sua determinazione a mostrare che dobbiamo recuperare certe abilità, non solo manuali in primo piano, ebbene, c'è una connessione tra lui e alcuni insegnanti e dirigenti universitari qui in Italia, i più illuminati, che lanciano un appello simile con dei distinguo naturalmente. Partiamo ora da un libro che verrà presentato da qui a breve al Festival della Letteratura di Mantova a settembre. Questo libro si intitola Ero studente. Chi lo ha scritto? Giovanni Lo Storto, che è il direttore della LUIS. E Giovanni Lo Storto parte da un'osservazione statistica. Dice: visto che ci troveremo a lavorare in un mondo del lavoro stravolto rispetto alla tradizione, anzi chi va a scuola adesso lavorerà nel 65% dei casi in impieghi, in attività, in mestieri, in lavori, non sappiamo nemmeno come definirli, che non sono nemmeno ancora stati inventati. E dunque, che senso ha studiare? Cioè, cosa serve a un giovane per essere al passo? Questa è una domanda legittima, ricorrente. Basta studiare, prendere ottimi voti e impegnarsi? E migliaia di gambe, di occhiali, di corse sulle scale, le 8:30, tutti in piedi, il presidente, la croce, il professore che ti legge sempre la stessa storia, nello stesso modo, sullo stesso libro, con le stesse parole. Da 40 anni di onesta professione. E questo è Antonello Venditti. Giovanni Lo Storto sostiene in Ero Studente che il bagaglio teorico è imprescindibile oggi. Ma comunque per la formazione di uno studente serve un insegnamento diverso, di un altro tipo, largo, che abbracci l'altro, che abbracci per esempio le attività di volontariato. Sì dunque a questo tipo di formazione, sì al lavoro nei campi. E le pagine contenute in questo libro, cioè le testimonianze degli studenti che hanno seguito questo modello, che ci sono passati, sono davvero impressionanti. Ma adesso gli abbiamo chiesto come si snoda questo modello. Il nostro metodo lo abbiamo sintetizzato per esempio in un progetto che abbiamo chiamato AdLab, che è quello di mandare gli studenti in un'adozione breve di qualche ora addirittura a contaminare i manager e gli imprenditori della loro capacità di avere una visione molto più ricca di quella che noi stessi abbiamo. Oppure si tratta di andare a fare percorsi di volontariato e all'interno di questi percorsi, che hanno crediti, come dire, formativi, i ragazzi non solo crescono perché fanno esperienze più complete, ma imparano che il lavoro, il sacrificio è qualcosa di più importante di quello che capirebbero se soltanto lo sentissero raccontare o dai libri di studio. E proprio perché non c'è più la possibilità di pensare che i lavori per cui si studia sono lavori certi, noti. La ricerca che avevo citato del Dipartimento americano è una ricerca importante, ma del resto se noi pensiamo a 100 anni fa e a chiedere al nostro bisnonno che mestiere avrebbe fatto il proprio pronipote, gli avremmo detto per esempio che avrebbe fatto l'esperto di cyber security o il designer di games e non avrebbe avuto modo di poterlo immaginare. Così come ci sono oggi di Elon Musk, il creatore della Tesla, che dice: fra 20 anni avere una macchina come quelle che oggi abbiamo in circolo, che abbiamo nei garage, in garage, sarebbe come avere oggi un cavallo nel garage. Lei con quanti giovani ha a che fare ogni anno? Bad Lab nasce proprio dalla considerazione che ogni anno ne arrivano 1000 nuovi. E questi 1000 ragazzi nuovi, 1200 ragazzi nuovi, le matricole che sono arrivate quest'anno sono molto diverse da quelle dell'anno scorso e sono tutt'altro che quelli dell'anno prima. Ha ragione Papa Francesco, non siamo in un'epoca di cambiamento, siamo in un cambiamento di epoca. E allora in un cambiamento di epoca bisogna avere l'intelligenza di riferirsi a chi ha i maggiori strumenti. E questi ragazzi nuovi che arrivano, questi 1000 ragazzi per anno, portano principi sani di accelerazione nel cambiamento. Ma lei, proprio personalmente, quando ha a che fare con loro, cosa impara? Imparo l'ascolto perché... a differenza di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti, in cui abbiamo imparato a parlare e a disseminare il nostro sapere, le nostre convinzioni, con questi ragazzi che hanno voglia di fare più che di dire, di tanto in tanto riusciamo anche ad imparare ad ascoltare la loro voglia di arricchirci, la loro voglia di mettere in comune con noi la speranza di un mondo che può cambiare. Di fronte al fatto che noi sappiamo che c'è una generazione di NEET in Italia, cioè di persone che non studiano e non sono occupate, molto alta, e che quindi c'è bisogno per loro di interventi anche della parte pubblica per offrire un'occasione di lavoro, di impiego, di nuova formazione, c'è però, per fortuna, dico io, una generazione di ragazzi oggi sedicenni che ci insegnerà che ci sono delle velocità molto diverse che possono aiutare ad allungare verso la soluzione dei problemi. Molti giovani però dicono di ritrovarsi in tasca lauree che al termine del ciclo di studi non riescono a sfruttare come vorrebbero. Cosa risponde? Facciamo un ragionamento. Uno studente che sceglie l'università oggi andrà a lavorare fra 5 anni, quindi nel 2022, nel 2023. Esatto. Uno studente invece che si iscrive al liceo oggi lavorerà nel 2028, chi si iscrive alla scuola media nel 2031. Allora, ma che mondo è il mondo che sarà nel 2031? Se guarda la lista di aziende che non esistevano nel 2005, nel 2006, soltanto 10 anni fa, troverà che tutto quello che noi facciamo ogni giorno è collegato a nomi che nel 2006 non esistevano, nessuno le conosceva. Per cui scegliere uno studio, un corso di laurea, un indirizzo soltanto in base a quello che sarà il mondo del lavoro fra 5 anni o fra 6 anni è un po' rischioso. E possiamo anche leggere alcune delle esperienze tratte da questo libro, per esempio quella di una studente che racconta: Maria, Luisa, Rita, Simona, nomi di fantasia, sono delle ragazze della mia età, con le mie emozioni, le mie paure, i miei sogni, i miei desideri, eppure siamo diversissime. La loro vita finora e probabilmente ancora per tanto tempo è stata molto differente dalla mia, e questo l'ho potuto capire fino in fondo soltanto frequentandole ed entrando con molta delicatezza femminile, in punta di piedi e senza prepotenza, nella loro intimità, fino a condividere con ciascuna un pezzetto di confidenze e di autentica umanità. E quindi racconta di come si sia azzerata poi la sfiducia reciproca e cresciuta la sintonia grazie a questa esperienza fatta con la Luis, un'esperienza di volontariato con le ragazze madri nella casa della mamma, una casa famiglia. Questa volta a parlare è Maurizio Fazio, che ringrazio per il suo tempo. Professore, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Maurizio Fazio. Buonasera da voi, direi. Buonasera da noi, buongiorno da lei, è un po' difficile. Ma lei insegna a Harvard. Abbiamo affrontato il tema dell'insegnamento. La vostra è considerata un po' un tempio ancora dell'eccellenza e dell'insegnamento nel mondo. Ha notato delle differenze, poi diremo nello specifico cosa fa lei, tra il modello italiano e il modello americano? Ma sicuramente ci sono grandissime differenze tra i due tipi di istituti universitari. Una delle quelle in particolare, secondo me, è che in maniera molto strana l'Italia, avendo questa grandissima storia e ricchezza culturale, l'Europa più in generale, tende a creare un curriculum formativo dove si guarda molto al passato e si creano delle fortissime basi classiche, anche in ambito scientifico, tra virgolette. Però si ha poi difficoltà, diciamo, a creare dei curriculum o delle esperienze formative per gli studenti che siano veramente in grado di portarli nel presente, in quella che è l'innovazione tecnologica in particolare. E ad Harvard come si fa invece? Perché lei ha studiato medicina a Milano, quindi può fare i confronti, si è specializzato nel ramo dell'oncologia, dell'ematologia in particolare, e poi è stato molto in reparto, poi ha deciso di dedicarsi alla ricerca di nuove terapie contro i tumori solidi e del sangue. E rimarrà a Harvard per un po', tante cose ha visto. Cosa mutuerebbe, cosa riporterebbe da questa parte se la chiamassero e le dessero una cattedra in Italia? In Italia c'è una forte tendenza a incentivare quello che è l'anzianità, cioè che più tempo si passa nell'interno di una struttura, più autorevole è una persona. Mentre quello che negli Stati Uniti si vede in questo tipo di istituzioni è che la dignità si dà alle idee e al merito, non necessariamente all'anzianità. Ovviamente ci sono dinamiche umane come ovunque troveremo nel mondo, però quello che mi è particolarmente colpito quando sono arrivato la prima volta negli Stati Uniti è che io, anche da studente di medicina ai miei primi anni di studi, mi era concesso di sedermi al tavolo con professori con esperienza di 30-40 anni e poter esprimere quella che è la mia opinione su un problema di attualità medico, mentre loro stavano discutendo come cambiare la realtà della clinica medica nel tempo. E la mia opinione non era valutata sulla base del fatto che io di quale titolo avessi o di quanti anni avessi, da quanto tempo ero in questa istituzione, ma del contesto e della concretezza di quello che io stavo proponendo dal punto di vista dell'idea. E questa secondo me è una cosa che l'Italia ancora riesce a fare con grande difficoltà. E ci sono delle motivazioni anche un po' culturali che stanno alla base, perché un esempio molto pratico è il fatto che in italiano noi distinguiamo tra il lei e il tu, mentre in inglese questa distinzione non esiste, per cui si crea nell'ambito professionale un livello di informalità che permette alle persone, diciamo, di parlare sullo stesso piano più orizzontale, e questo scambio di idee libero è una componente fondamentale, secondo me, del progresso della ricerca e della scienza. Lei con il lei e il tu è riuscito a sintetizzare un concetto che include la meritocrazia contro l'anzianità come modello culturale e la dignità delle idee. Dunque la ringraziamo per questa lezione che è arrivata qui a Spunti di Vista direttamente da Harvard, e a impartircela è stato il professor Maurizio Fazio. Spunti di Vista, i mille aspetti dell'attualità. Sempre Spunti di Vista, stiamo parlando di eccellenze. Le eccellenze esistono ovunque. Noi abbiamo guardato fuori finora Spunti di Vista, ma abbiamo deciso anche di guardare in Italia, dove c'è un modello di informazione invidiabile e autorevolissimo che andremo a conoscere dopo. È quello di Ansa Med. Intanto qui a Spunti di Vista ci spostiamo a Torino. Perché? Perché lì esiste una procedura che è già stata copiata da Argentina, dal Messico, è stata studiata da tanti altri comuni italiani che vorrebbero fare la stessa cosa, ed è un'idea veramente in grado di realizzare un miracolo. C'è una cooperativa sociale che nel settore del riciclo della carta, quindi tutela ambientale, ha operato in maniera più che virtuosa e ha permesso contemporaneamente di dar lavoro con dei veri e propri contratti a tempo indeterminato a persone, 250 per la precisione, che altrimenti un lavoro non l'avrebbero avuto, perché hanno, per dirla con una definizione delicata, hanno un passato problematico. Cioè sono persone, ex detenuti, ex carcerati, ex tossici, ex tutto quello che una persona può essere, che altrove sarebbero state destinate al disagio o su qualche panchina, e che ora invece sono una specie di eroi metropolitani. I contratti creati finora con questa cooperativa, abbiamo detto, sono 250, e questo modello è stato studiato, è stato consegnato perfino nelle mani di Ban Ki-moon, da tanta attenzione internazionale ha suscitato. Con noi c'è uno dei fondatori e presidente della cooperativa Arcobaleno, Tito Ammirati. E con lui c'è Marco, uno dei raccoglitori di carta. Buongiorno Tito. Buongiorno, buongiorno anche a te. Come hai sentito, non ho anticipato nulla, cosa fate? Siete molto noti a Torino, ma nel resto d'Italia non è così risaputa la vostra storia, anche se giornali, televisioni, adesso perfino Rai Cinema si è occupata di voi. Che fate? Noi raccogliamo la carta e, come dice anche un mio collega, raccogliamo le persone, nel senso che questa è un po' la missione nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo, cioè quello di raccogliere la carta. Lo facciamo con un sistema porta a porta, lo facciamo da quasi 25 anni, una delle prime esperienze su vasta scala nate in Italia. Lo facciamo impiegando persone che arrivano con problemi alle spalle di varia natura, prevalenza tossicodipendenza, detenzione, alcol dipendenza. Il passato complicato che dicevamo, raccogliere la carta, quindi qui stiamo parlando di riciclaggio, e questa sì è una realtà diffusa in tutta Italia, ma dal 1992, grazie a un'iniziativa di Lega Ambiente, si voleva, ai tempi quando proprio di riciclaggio ancora non si viveva, non era un concetto assimilato né nelle città né tra i cittadini che poi avrebbero dovuto di fatto operarlo e farlo, ai tempi viene avvicinato a questa branca del gruppo Abele per una sperimentazione. Nel 92 voi già ci avete creduto e avete cominciato a pensare al fatto che se i cittadini fossero stati messi nella condizione di averla facile, questa possibilità di riciclare, l'avrebbero anche fatta. La storia vi ha dato ragione? Direi proprio di sì, perché quando siamo partiti le persone impiegate erano 5 e i mezzi noleggiati all'Avis erano un paio, perché i soldi scarseggiavano, e però da subito l'esito fu straordinario, sia in termini di quantità raccolta, sia in termini di purezza. Perché qual è la questione? Che se tu vai a raccogliere il rifiuto presso le case dei cittadini, il rifiuto è molto più pulito, è molto più omogeneo, non è mescolato ad altre impurità, ad altri rifiuti. Perché ai tempi si faceva col cassonetto, cioè era il cittadino che doveva camminare fino all'angolo della strada, esatto. Giusto, nel 92. Ribaltare questo ragionamento, cioè anziché attendere che il cittadino conferisca il rifiuto in un cassonetto stradale, ma andare tu a casa sua a prenderlo, ti consente di ottenere risultati. Esatto, e ha funzionato, anche altrove, ormai è una realtà digerita, assimilata. A Torino in particolare ci sono questi cassonetti, non cassonetti, sono proprio cestini, non saprei come descriverli, sono quasi degli oggetti anche di design, sono cestini gialli che tutti conoscono. Sono cestini gialli che sono un po' il nostro cuore pulsante, noi siamo la cooperativa dei cestini gialli e la vera rivoluzione culturale che ha permesso un progetto di questo tipo è proprio questo, che siamo partiti come la cooperativa dei tossici e quindi visti anche con una certa diffidenza, questo 25 anni fa, e oggi invece c'è un grande riconoscimento e un grande affetto nei confronti di questo cestino giallo che noi usiamo anche tanto per comunicare, quindi cambiamo un po' le icone, cambiamo i disegni che vengono mostrati sul cestino. Eravate la cooperativa dei tossici, oggi come vi chiamate? Oggi ci chiamiamo Arcobaleno e le persone che ci lavorano hanno acquisito man mano una stima e un orgoglio di poterne farne parte, perché sai, raccogliere la carta è un lavoro molto umile, ma fatto con grande dignità, con grande attenzione, dimostrata proprio dall'affetto delle persone che incontrano tutti i giorni, quindi i magazzinieri degli esercizi commerciali, i custodi delle abitazioni, che con affetto e con ansia attendono che il raccoglitore di carta di Arcobaleno vada a prelevargli il quantitativo. Abitazioni, supermercati, negozi, bar, ovunque. Uffici pubblici, ovunque. E qui non stiamo parlando di volontariato. Voi, grazie a questa idea, poi avete convinto negli anni l'amministrazione comunale di Torino della bontà dell'idea, avete partecipato naturalmente agli appalti che man mano si rinnovano. Date loro un lavoro vero e proprio, dico bene, un contratto. Questo è il lavoro vero, assolutamente sì. Tutte le persone che lavorano in cooperativa sono assunte, sono tra l'altro la stragrande maggioranza, l'80% assunto a tempo indeterminato, con un contratto che è il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali, che non è un contratto ricchissimo, ma è un contratto che ti consente di guadagnarti una tua autonomia e una tua, come dire, dignità, sicuramente. Lo stipendio più o meno a quanto ammonta? Per chi arriva, lo stipendio dell'autista raccoglitore è di circa 1170 euro, 1160 euro. Marco, buongiorno. Per di sensibilità. Buongiorno. Marco, tu sei uno dei raccoglitori di carta. Sì. Da quanto tempo lo fai? 2008. Ti riconosci in questa descrizione? Naturalmente non voglio i dettagli del passato difficile, diciamo così. No, no, assolutamente. La cooperativa per me è stata una rinascita. Io ho 42 anni, sono entrato qui che ne avevo poco più di 30, per me è stata una rinascita. Io sono fiero di lavorare in questa azienda, perché mi ha dato la possibilità, come dicevate prima voi, di avere una nuova autonomia, una vita personale, uno stipendio che mi permette di pagare le bollette, di vivere serenamente, di fare un lavoro che mi piace. E non ci credevi prima di incontrarli? In che momento eri della tua vita quando... Difficile, perché io ero in un dormitorio comunale, ero senza lavoro, ero senza soldi, ero depresso, quindi non vedevo un futuro nella mia vita. Ho ricevuto un aiuto veramente importante, che in altre aziende, visto che avevo fatto diversi colloqui, diverse richieste, non avevo trovato porte chiuse, perché io non avevo nessuna esperienza in questo settore, qui mi hanno preso, mi hanno formato, mi hanno insegnato a credere in me stesso, a credere in quello che faccio nel lavoro, e oggi sono una persona serena, felice e contenta di lavorare in questa azienda. Ma è vero che alcuni hanno provato vergogna all'inizio? Ci si vergogna? Sì, ma io per primo, perché comunque avere un gilet giallo, raccogliere, all'inizio la prendevo come immondizia, e mi vergognavo, mi danno fastidio gli occhi delle persone i primi giorni. Poi ho iniziato a conoscere i miei colleghi, l'azienda per cui lavoro, le persone che già conoscevano questa azienda, le utenze, e piano piano ho iniziato a capire che questo lavoro è rispettoso, è un lavoro serio, è un lavoro che comunque mi permette a fine mese di pagare le bollette. E la mentalità, anche la percezione della città è cambiata, e pensate, questo è un modello che ormai si esporta. Messico, Argentina non sono gli unici ad aver chiamato questa cooperativa, questo modello tutto italiano, perché faccia formazione, perché spieghi anche agli altri cosa fare. Ma all'inizio non era così, lo documenta bene questo film, sentiamolo. Lucio! Lucio, cattivo, cattivo sei! Rubare a tua mamma! Ci sono storie. 25 anni di merda ho fatto io. Che nessuno racconta. Ma la polizia! Leggere come la carta. Ma va, che giocare. Pesanti come il destino. Sono Lucio Carollo, ho 28 anni e sono nella merda. Ma voi cosa siete, spazzini della mia? No, signora, siamo di una cooperativa sociale, si chiama Arcobaleno. Signor cooperativa sociale, che paura! Sono quelle che sono tutti balenghi, tutti un po' fuori di testa, sono tutti badola. E che quando vedo uno di noi, nel 40%, che butta la sua vita nel cesso, sapete cosa vedo? Vedo la mia vita di merda di prima. La voce sì, l'avete riconosciuta, era lei, era Luciana Littizzetto, che si è prestata a collaborare a questo film, e mentre rispondeva al citofono chiamava naturalmente le autorità dicendo: attenzione, fuori da casa mia c'è qualcuno che dice di voler raccogliere la carta, in realtà sono dei disgraziati, dei disperati, chissà cosa vogliono farmi. E questa percezione ben fotografata in questo film era quella della città. Tanto è cambiato e chiaramente non è stato semplicissimo. Tra voi il grande orgoglio, Tito, è l'aver creato lavoro grazie a questa idea. Questa idea semplice della raccolta carta si è poi intrecciata all'esigenza di dare lavoro a persone che altrimenti non l'avrebbero avuto, perché poco qualificate, perché con situazioni personali anche piuttosto difficoltose, segnalate insomma dai servizi sociali. Ma volevo chiederti: qual è la differenza tra reclutare persone con i canali tradizionali e reclutare persone invece che vengono da questo tipo di storia? È proprio un dover impiegare tante energie per raggiungere un obiettivo di grande valore. La differenza sta nel riuscire a trovare una grande anche soddisfazione personale, devo dire, nel comprendere quanto è utile offrire un'occasione di lavoro accompagnata che permetta alle persone di rivivere la possibilità di avere una prospettiva. Io mi accorgo sempre che in qualche modo abbiamo raggiunto un po' un successo legato all'inserimento lavorativo delle persone quando i miei colleghi incominciano a dirci: ah, sai, ho pianificato le ferie. Ecco, quello per me è spesso, non è sempre così, ma è spesso un elemento che ci permette di capire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di accompagnare i nostri colleghi al raggiungimento di una propria autonomia, di una propria indipendenza, di una propria... C'è un elemento di normalità, questo delle ferie. Guarda, guarda, è esattamente questo, ma è l'insegnamento che io ho anche in qualche modo appreso in tutti questi anni, e l'inseguimento della normalità. Cioè, vivere la normalità significa per tutti noi che facciamo parte di questa cooperativa vivere bene. Marco, hai pianificato le ferie? Sì. Dove andrai? In Argentina con la cooperativa. Bellissimo, mi sembrano veramente anche queste scelte che hanno un rilievo, un peso eccezionali. Dal punto di vista del film, l'abbiamo sentito prima, questi... persone che poi confrontandosi dicono avevo una vita davvero difficile, oggi posso andare avanti, e sappiamo anche che molti di voi sono stranieri. Esiste un problema di diciamo pregiudizio all'interno della cooperativa, per cui la sensazione che si ritrova fuori nella società, fuori dalla vostra cartiera, diciamo così, che gli stranieri ci rubino il lavoro, c'è anche tra voi? Ti dico di no, perché qui non c'è un discorso di bianco, di nero, italiano, marocchino, rumeno. Qui studiamo insieme tutti quanti, ci svegliamo la mattina, prendiamo il caffè insieme, lavoriamo e siamo amici. Poi può essere quello simpatico, antipatico, può scapparci la battuta, ma non assolutamente, anzi, quando dividi le fatiche non c'è un discorso di razzismo, assolutamente. Qual è l'aspetto più bello del tuo lavoro, Marco? La piccola cosa di comprarsi una macchina, un mobile nuovo, uscire a cena, piccole cose che magari per le persone sono normali, sono routine, però per chi non le aveva, per chi aveva delle difficoltà, sono cose molto importanti. La sicurezza e la tranquillità, ecco. E nell'Italia in cui aumentano le disuguaglianze e la disoccupazione, prende ancora più merito un'iniziativa di questo genere. Per cui, Tito Ammirati, grazie per averla condivisa con noi. Qual è il prossimo obiettivo della tua cooperativa? Oh, grazie a voi. Ma il nostro obiettivo è quello di poter trovare altre attività, perché scarseggiano sempre di più, nelle quali è possibile replicare quello che ci ha consentito un'attività come la raccolta dei rifiuti, che tiene presente in Italia è molto diffusa, e in tantissime regioni d'Italia molte cooperative si occupano, sociali come la nostra, come Arcobaleno, si occupano di raccolta rifiuti impiegando tante persone. È nata una rete che si chiama 14 luglio, che le raggruppa tutte, provenienti da 7 regioni d'Italia, proprio per cercare di condividere le difficoltà, per provare a intravedere anche nuovi mercati, nuove possibilità nelle quali poter inserire altre persone, perché ce n'è tantissimo bisogno. Ecco. 7 regioni d'Italia e 22 paesi del mondo, perché 22 sono le bandiere che sul tetto della sede della cooperativa a Torino sventolano a rappresentare tutti voi che ci lavorate. Marco, anche a te, grazie per il tuo tempo. Grazie a te. Ciao, buon lavoro. Grazie davvero, grazie per questa occasione. Spunti di vista, seguiteci sulla pagina Facebook della trasmissione, oppure ci potete contattare via email spuntidivista@radio24.it. E ci stiamo avviando alle conclusioni. Irene Zerbini al microfono, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Che viaggio! Abbiamo capito che se ci si scambiassero le buone pratiche si otterrebbe un risparmio totale, che è stato quantificato, addirittura è stato quantificato, di circa 30 miliardi di dollari l'anno, che potrebbero essere investiti in politiche, in esperimenti, in progetti, insomma, e nel miglioramento della qualità della vita di tutti. Ma non si fa... Proviamo a farlo un po' noi a Spunti di Vista, ancora buongiorno. Per esempio, abbiamo scoperto che ad Atene, sì, proprio la capitale della Grecia, è un'altra realtà a cui guardare per l'innovazione. Si usano i migranti in una maniera che valorizzi le loro capacità digitali, per esempio. Per cui sanno disegnare website, sanno codificare, sanno sviluppare app, e queste Questi skills, come si ama a dire, queste capacità, si utilizzano nella creazione di seminari. Esiste un hub creativo a cui partecipano non solo greci, ma addirittura in cooperazione con degli educatori finlandesi. E questa eccellenza di Atene ci è stata segnalata dal direttore di AnsaMed. Che cos'è AnsaMed? AnsaMed a sua volta è un'operazione, in questo caso editoriale, in questo caso di comunicazione, che va segnalata, perché se è vero che esiste l'Europa, esiste anche un'identità comune, sempre sottovalutata, ai paesi che appartengono al bacino del Mediterraneo. Per esempio, lo sappiamo quanti siamo? I paesi del bacino del Mediterraneo hanno una popolazione di circa 245 milioni di abitanti, direi più che rispettabile, più o meno rispetto all'Unione Europea è il 60%. Il benessere economico però è di gran lunga inferiore alla media dei paesi dell'Unione Europea. E ci vorrebbero più scambi, ma non solo. Tutti i paesi nell'ultimo decennio, questi paesi dell'area del Mediterraneo, hanno registrato tassi di crescita del commercio con l'estero. Forse bisognerebbe crederci di più. Comunque AnsaMed ha cercato di restituire e un'identità e una consapevolezza. Grazie a questo sito ha anche 1 milione di contatti a volte. Cercatelo, ansamed.it, ed è ricco di informazioni decisamente importanti. Lo sentiamo? Patrizio Nissirio, responsabile, direttore dunque di AnsaMed, vogliamo salutarlo. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Cosa fa AnsaMed? C'è da tanti anni, ma diciamolo a chi non dovesse conoscerla. AnsaMed è una costola, una parte integrante dell'agenzia Ansa, che come forse sanno molti dei vostri ascoltatori è la più importante agenzia di stampa italiana, che alcuni anni fa decise di puntare per l'appunto sul Mediterraneo. All'epoca, parlo di oltre 12 anni fa infatti, AnsaMed era a Napoli, ci fu una sede che fu creata proprio a Napoli e svolse questa idea per la quale l'Italia poteva fare informazione sul Mediterraneo. Non solo per il pubblico generale, ma per le imprese, per la politica, per la cultura, per il turismo. Quindi venne fuori questo servizio in italiano, inglese ed arabo, che continua ancora oggi, che aveva appunto questa funzione. Una cosa interessante di AnsaMed è che una idea simile fatta da un grande concorrente francese fallì miseramente. Quindi per una volta noi siamo riusciti con i nostri mezzi, che devo dire non sono enormi, ma fortunatamente contiamo su bravissimi professionisti, siamo riusciti a svolgere e continuiamo a farlo questo importante compito informativo. Quali paesi coprite, Patrizio? Copriamo tutti i paesi della sponda nord e della sponda sud, naturalmente questo coinvolge alcuni tra gli scenari più intensi dell'informazione che ci siano in questo momento, e cioè il Medio Oriente, e il Mediterraneo centrale ed orientale con le sue rotte migratorie, che sappiamo quella essere la madre di tutte le notizie in questi mesi ed anni, e quindi il lavoro naturalmente a partire dalle cosiddette primavere arabe è stato sempre molto molto intenso, e questo è, devo dire, è stata un po' tra virgolette la fortuna anche di AnsaMed, perché a un certo punto ci siamo trovati con un'enorme storia tra le mani, come si può dire, e abbiamo dovuto adattare il nostro modello informativo a questa massa di informazioni che è andata crescendo esponenzialmente. Sì, è una massa di informazioni che spesso però perpetua la mancanza di conoscenze, quindi è particolarmente importante attraverso l'informazione capire che noi italiani capiamo anche, per esempio, che esistono altri paesi che hanno accolto molto più immigrati rispetto all'Italia, anche con meno risorse. Adesso sto pensando alla Giordania. E questo è un dato, così, un elemento casuale che mi viene in mente. Ma quando siete nati, la missione originaria era anche lo scambiarsi le idee tra popoli che oltre il mare hanno in comune proprio dei segmenti significativi della reciproca storia. Sì, adesso farò una grossolana generalizzazione, ma per far capire, noi crediamo, ma anche come italiani crediamo, di avere molto più in comune probabilmente con i popoli della sponda sud del Mediterraneo che con quelli che si affacciano sul Mar Baltico, onestamente. Condividiamo per esempio alcune strutture sociali come la famiglia, la centralità della famiglia, alcuni tratti della cucina, alcuni tratti della cultura alimentare, cioè del piacere di stare a tavola, che francamente non mi sembra siano tratti delle culture nordiche. Quindi è molto importante che l'Italia, che è una cerniera tra questi due mondi, ovviamente per la sua posizione geografica, possa anche lavorare in senso culturale per favorire il dialogo. Questo, ripeto, è sempre stato lo scopo di ANSAMED, oltre a quello di fare informazione. Cioè, noi siamo l'ANSA e quindi la nostra missione è quella di fare un'informazione accurata, libera da pregiudizi e giudizi. Tu giustamente sottolineavi questa vicinanza, questa affinità tra i popoli del Mediterraneo. Eppure la realizzazione di un'identità o di un asse, penso anche all'aspetto dei diritti umani, della cultura, ad aspetti economici, non si è mai realizzata, nonostante queste affinità riconosciute da giornalisti e scrittori. Come te lo spieghi? Ma io credo che questo sia un tratto di debolezza delle classi politiche dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ci sono stati dei tentativi anche in anni e mesi recenti di fare dei vertici dei paesi del sud Europa, in particolare l'Italia e la Grecia, che hanno avuto per esempio delle presidenze dell'Unione Europea consecutive, hanno tentato di fare un'agenda comune e in parte ci sono riuscite. Io ritengo non da ora che sarebbe molto importante invece una più stretta collaborazione politica sui maggiori temi nell'agenda internazionale tra questi paesi, uno tra tutti l'immigrazione. Abbiamo visto proprio di recente come l'Italia si trovi a un certo punto isolata rispetto al resto dell'Unione Europea su questo tema scottante, su cui peraltro fa così tanto. Ecco, se ci fosse un asse di vari paesi, penso alla Grecia, penso alla Spagna, penso a Malta, penso a Cipro, su questi argomenti probabilmente si riuscirebbe anche a ottenere qualche risultato in più a livello comunitario. Questa frammentazione del fronte sud, chiamiamolo così, dell'Unione Europea, poi ci si ritorce contro. Cioè, il Mediterraneo non è solo il posto delle crisi, delle guerre, delle rivoluzioni, delle migrazioni di massa, è anche il posto della possibilità. Ci sono momenti di collaborazione importanti tra le televisioni e le radio pubbliche, per esempio, di tutta l'area, che fanno dei documentari molto interessanti insieme. Ci sono scambi, per esempio, penso a Italia e Grecia, che conducono insieme una battaglia contro il traffico di opere d'arte ed archeologiche. Se questi momenti di scambio potessero aumentare, secondo me farebbe bene anche proprio all'idea d'Europa, che ultimamente è un pochino appannata. Infine voglio ricordare anche una citazione del Pontefice sul vostro servizio, infomigrants.net, nato da poco. Che cos'è e perché si è meritato addirittura questo applauso di Francesco? Beh, siamo molto orgogliosi naturalmente del messaggio del Papa diretto all'ANSA, ANSA in quanto partner di infomigrants.net. Che cos'è Infomigrants? È un servizio che facciamo in partenariato con Deutsche Welle in Germania e France Media Monde in Francia, che intende informare non il pubblico europeo ma i migranti stessi, coloro che sono nei paesi che intendono lasciare, coloro che sono in viaggio, coloro che sono già in Europa, con un'informazione più possibile equilibrata sui pericoli, ma anche le storie di integrazione che non mancano, e quindi è un servizio assolutamente innovativo che gode del sostegno della Commissione Europea e che in un momento del genere è uno strumento che può essere molto prezioso, perché se è vero che molti migranti si imbarcano senza sapere cosa li aspetta, magari questo servizio, che si svolge in francese, inglese ed arabo, può fornire qualche strumento in più per una decisione informata sul partire o meno. A me piace tornare ad Atene, perché l'abbiamo nominata in apertura di conversazione. Recentemente hai pubblicato un libro, Atene, cannella e cemento armato, e anche in questo caso sei andato oltre il turismo, il cliché, per entrare in quello che è il paradigma del viaggio. Vero, in questo libro sono stati addirittura scomodati i più grandi scrittori greci che hanno viaggiato insieme a te. Ma che Atene è? Perché un patrimonio come questo della cultura mediterranea, secondo te, meritava di essere approfondito ancora di più, di essere conosciuto ancora di più? Atene è una città con un sacco di problemi, tutti siamo consapevoli della crisi greca che va avanti da molti anni, Atene naturalmente ne è l'epicentro, però è anche una città che offre spunti straordinari al viaggiatore e non al turista distratto. Infatti molti diranno, lo dicono sempre, Atene è brutta, Atene sicuramente ha dei problemi di sviluppo urbanistico caotico, di traffico ed altri, tuttavia è una città con grandi segreti, con un grande passato, ma questo è una banalità, ma anche con un presente molto interessante, con un presente fatto di spunti creativi, giovani che sono attivi nella ristorazione, una ristorazione all'avanguardia da tanti punti di vista, nella cultura, nella sperimentazione, sul web. È una città con diciamo angoli nascosti che in questo libro, con l'ausilio appunto di scrittori greci contemporanei, da Petros Markaris, l'inventore del commissario Charitos, ad altri come Margarita Liberaki, Menis Koumandareas e naturalmente il grande poeta Yorgos Seferis, mi servono per raccontare appunto questa Atene sconosciuta, un'Atene che da una parte è stretta dal traffico ma dall'altra offre per esempio il mare di Atene, che è una cosa che nessuno quasi frequenta se non è greco, a ristoranti sconosciuti in quartieri non frequentati da turisti, ha una storia recente di guerre civili, di dittatura e di resurrezione democratica. Quindi ecco, un'Atene che offre molto più che quello di quello che nei due giorni che di solito si dedicano, Partenone e Museo Archeologico. Quello che è contenuto nelle guide turistiche, insomma. Anche in questa operazione, dunque, ti sei adoperato per squarciare un luogo comune. L'hai rimosso. Questo ci piace a spunti di vista. Che lo ricordo, torna con voi alle 10 di sabato e alle 8 della domenica, sempre al mattino. Grazie agli autori e ai producer Miriam Lucchetti, Elisa Pancaldi, Giulia Lauricella e in regia Carmelo. Lauricella, stesso cognome ma parenti non sono, questo lo precisiamo. Io sono Irene Zervini e vi auguro una grandissima giornata.